prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già posto in animo a Giuda di Simone Iscariota di tradirlo, sapendo che il Padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose il mantello e, preso un panno, se ne cinse. Versò quindi dell'acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto. Arriva dunque a Simone Pietro. Gli disse: «Signore, tu mi lavi i piedi?» Gli rispose Gesù: «Ciò che io ti faccio, tu ora non lo sai, lo comprenderai in seguito». Gli disse Pietro: «Non mi laverai i piedi, no, mai!» Gli rispose Gesù: «Se io non ti lavo, non avrai parte con me». Gli disse Simone Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù soggiunse: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è integralmente puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi stava per tradirlo. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Or quando ebbe lavato loro i piedi, riprese il suo mantello, si rimise a sedere e disse loro: «Capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né l'apostolo è più grande di colui che l'ha mandato. Se capite queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo per tutti voi. Io conosco chi ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin d'ora ve lo dico prima che accada, affinché, quando accadrà, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che avrò mandato, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Detto questo, Gesù fu turbato interiormente e attestò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano gli uni gli altri, non riuscendo a capire di chi egli parlava. Uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, stava adagiato proprio accanto a Gesù. Allora Simon Pietro gli fa cenno di chiedergli chi fosse quello di cui parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli dice: «Signore, chi è?» Gesù risponde: «È quello a cui porgerò il boccone che sto per intingere». Intinto dunque il boccone, lo prese e lo porse a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, entrò in lui Satana. Gli dice Gesù: «Quello che devi fare, fallo subito». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo. Siccome Giuda teneva la borsa, alcuni supponevano che Gesù gli avesse detto: «Compera quanto ci occorre per la festa», oppure che gli avesse ordinato di dare qualcosa ai poveri. Così, preso il boccone, quello uscì subito. Era notte. Quando fu uscito, Gesù dice: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio, per parte sua, lo glorificherà, e subito lo glorificherà. Figlioletti, ancora un poco sarò con voi. Mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così lo dico ora anche a voi. Un comandamento nuovo vi do, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Gli disse Simon Pietro: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: Dove io vado, tu non mi puoi seguire ora, mi seguirai più tardi. Gli disse Pietro: Signore, perché non posso seguirti fin d'ora? Darei la mia vita per te. Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte.